Letture di Radio 24. La mostra su Venezia, Canaletto e i suoi rivali, aperta fino al 16 gennaio alla National Gallery di Londra, rappresenta un'occasione per confrontare le opere del maestro veneziano con quelle degli altri vedutisti che tentarono, quasi sempre senza successo, di fargli concorrenza. La vita è dura per tutti, e lo è stata anche per gli artisti del passato, compresi quelli che oggi ci appaiono brillare nel firmamento della fama. La mostra aperta nella Ala Sainsbury della National Gallery di Londra, dedicata a Canaletto, affronta la vicenda umana e artistica del più grande vedutista di tutti i tempi, proprio sotto questo aspetto. Canaletto lavorò a Venezia insidiato dai concorrenti. Fu costretto a sgomitare e a emigrare per conquistarsi una fetta di mercato tra collezionisti e committenti. E alla fine di una vita di lotte, di impegno e di fatica, morì povero in canna. La rassegna Venice, Canaletto and His Rivals, non offre solo l'occasione di calarsi in questa arena di pittori gli uni contro gli altri armati, ma aiuta a capire come gli artisti scegliessero i soggetti, i formati e persino i timbri luministici dei loro quadri in funzione delle volontà e dei gusti dei committenti, e come li variassero per offrire elementi di novità rispetto alle soluzioni offerte dalla concorrenza. Ubicata nelle 6 sale sotterranee della National Gallery, la mostra presenta l'intera parabola del vedutismo veneziano del Settecento, da Gaspar Van Wittel a Francesco Guardi, passando per Luca Carlevaris, Antonio Canale, detto il Canaletto, Michele Marieschi, Bernardo Bellotto e per un piccolo contingente di artisti meno noti. La rassegna segue grosso modo un andamento cronologico, ad eccezione della quarta sala, posta al centro del percorso, dove i curatori hanno scelto di giocare la carta della spettacolarità, riunendo i quadri con soggetti legati alle feste veneziane, alle regate, agli arrivi di monarchi, alle solenni ambascerie degli stranieri presso la corte dei dogi. A cominciare la grande stagione del vedutismo veneziano fu un pittore olandese trapiantato in Italia, Gaspar Van Wittel, da noi noto come Gaspare Van Vitelli. Dopo aver attinto dalla tradizione olandese una nitida visione delle cose, Van Vitelli girò in lungo e in largo il bel paese, Venezia compresa, per cogliere in disegni molto grandi e molto dettagliati gli angoli celebri delle città italiane. La veduta su tela nasceva poi in bottega, anche a distanza di anni. Van Vitelli si vantava in questo senso di avere una memoria infallibile ed era destinata come souvenir d'Italia ai viaggiatori del Grand Tour, clienti tipici di questo genere di produzione. Il quadro di Van Vitelli presente in mostra, in verità, non ci dà l'impressione di essere stato colto dal vero e i colori sono innaturalmente pallidi, ma dobbiamo tenere conto che il povero Van Vitelli era una mezza talpa e portava lenti spessissime che non gli permettevano la giusta percezione delle cose. Non a caso è passato alla storia col soprannome di Gasparo degli Occhiali. A vederci benissimo fu invece l'udinese Luca Carlevaris, il quale, trasferitosi a Venezia e ammirate le opere di Gaspare Van Vitelli, intuì il grande futuro del genere della veduta. Fu il primo a mettere a punto le inquadrature più celebri e più vendibili della città, a cogliere il grande appeal dei quadri che rappresentassero feste e regate. E fu anche il primo a farsi pubblicità. Ebbe la geniale idea di far incidere 100 sue vedute e di far circolare le stampe. Un'operazione di marketing che gli portò grande notorietà tra il pubblico degli intenditori a Venezia e all'estero. Che cosa impedì a Carlevaris di diventare celebre come Canaletto? Osservando i loro quadri affiancati in mostra, lo comprendiamo bene. È la luce l'elemento davvero discriminante. Se ne erano accorti anche i contemporanei. Il procacciatore di quadri, Alessandro Marchesini, scrivendo nel 1725 al collezionista Stefano Conti, lo esortava a non commissionare più vedute a Carlevaris, ma a rivolgersi al signor Antonio Canale, che fa in questo paese stordire universalmente ognuno che vede le sue opere, che consiste sull'ordine di Carlevari, ma vi si vece lucer dentro il sole. Canaletto aveva capito che i suoi clienti volevano vedere Venezia immersa nel sole estivo e non sotto cieli scuri e turbinosi. E li voleva accontentati. Aveva anche capito che ci volevano quadri di minor formato, che potessero più facilmente viaggiare, e li aveva prodotti. Joseph Smith, il console britannico di stanza a Venezia, decreterà il successo anglosassone di Canaletto, facendogli vendere vedute veneziane in serie a John Russell, quarto duca di Bedford, e a Charles Spencer, terzo duca di Marlborough. Alcuni quadri provenienti da queste illustri collezioni li possiamo ammirare in mostra. Come Carlevaris, anche Canaletto fece incidere le proprie vedute per aumentarne la notorietà presso i collezionisti, ma in più ebbe l'idea di andare a immortalare angoli più appartati della città, come il celebre laboratorio dei marmi di San Vidal, oppure cercò di deformare le angolazioni delle vedute più celebri per aumentarne l'appeal. In entrambi i casi, i suoi soggetti avranno grande fortuna tra i committenti. Nonostante tutto ciò, Canaletto visse assediato e insidiato da temibili concorrenti, soprattutto tra le generazioni più giovani di lui. Il primo fu Michele Marieschi, che soffiò a Canaletto un cliente d'oro come il feldmaresciallo Johann Matthias von der Schulenburg, abbassando drasticamente i prezzi. Marieschi aveva fatto pagare a Schulenburg 500 zecchini per un quadro del tutto simile a uno che Canaletto s'era fatto invece pagare 120 zecchini. C'è ragione di credere che alla notizia della morte di Marieschi, a soli 32 anni, Canaletto si fosse sentito sollevato. L'altro grande rivale, Antonio Canale, lo aveva in casa. Era suo nipote, Bernardo Bellotto, così bravo e fedele ai modelli canalettiani da diventare quasi un pericolo per l'illustre zio. Furono gli avvenimenti storici ad impedire che i due congiunti si sbranassero a vicenda nell'accaparramento dei clienti. La guerra di successione austriaca bloccò l'afflusso dei turisti committenti a Venezia e divenne necessario per i pittori andarseli a trovare direttamente in patria. I due si spartirono il territorio. Bellotto partì per Dresda, Canaletto per l'Inghilterra, come scriveva lui. Il soggiorno inglese di Canaletto, durato 9 anni, non fu affatto facile. Gli artisti locali gli fecero guerra, mettendo in giro voci malevole, ad esempio che lui non fosse il vero Canaletto, bensì suo nipote Bellotto. Per smentire, Antonio Canale fu costretto a pubblicare un annuncio sul giornale Daily Advertiser per invitare gli amatori d'arte ad andarlo a veder dipingere nel suo studio in Regent Street. In sua assenza, altri vedutisti, copisti e imitatori avevano occupato la piazza di Venezia e quando Canaletto rientrò in laguna era già al lavoro Francesco Guardi. Il re dei vedutisti tentò di riacquistare le sue posizioni di mercato, ma dovette farlo a fatica. Quando Canaletto morì nel 1768, lasciò agli eredi beni davvero irrisori. Un letto, uno scarso guardaroba, 283 ducati da dividere tra 3 sorelle e una piccola proprietà comperata nel 1751 come investimento. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Marco Carminati dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Dopo i Live Strong e i Power Balance, un nuovo tipo di braccialetti al silicone sta spopolando tra teenager e adulti. Sono i Silly Bands. Vietati nelle scuole americane perché distraggono gli studenti, in Italia sono diventati un veicolo per i messaggi cifrati. C'è quello tenero di Hello Kitty, c'è quello disneyano con Shrek, quello con i personaggi dei fumetti, Batman, l'Uomo Ragno, l'Incredibile Hulk, e quello ecologico, Save the Gulf, serie dedicata alla marea nera. I Silly Bands, ovvero braccialetti sciocchi, hanno sostituito le parole e quasi i sentimenti, alimentando un folle collezionismo ormai trasversale. Hanno cominciato i bambini, i nuovi trendsetter, e adesso eccoci qui a cercare di capire come, nel cuore della più straziante crisi economica, qualcuno abbia fatto salire i suoi dipendenti da 20 a 200 e il suo fatturato da 10.000 a 100 milioni di dollari con un semplice braccialetto di silicone a forma di fiore, dinosauro, folletto. Robert Kroc, 47 anni, di Toledo, Ohio, ispirato da una serie di elastici da ufficio a forma di animali, li ha tradotti in braccialetti e distribuiti con la sua BCP Import. Risultato? 1.500 scatole partono ogni giorno verso 18.000 negozi ed è già ora di riassortire. In Italia sono arrivati quest'estate con nomi diversi, Shocky Bands e Summer Bands. Lancio in grande stile, dichiarano di aver venduto 30 milioni di bustine in 2 mesi, tallonati da Logo Bands, Bama Bands, Zani Bands, Beanie Bands. A questo punto il catalogo è infinito. Calciatori con i colori delle squadre, delfini, balene, stelle, fiori, frutta, monumenti, le regioni, le lettere dell'alfabeto. Non c'è limite alla creatività. Una bustina da 12 in edicola costa 1,99 euro. La apri, infili al polso i tuoi braccialetti che perdono subito la forma, devi toglierli perché si capisca, e cominci la collezione. Una ragazza è riuscita a metterne 180, punta al Guinness e tiene il conto su Facebook, dove il fan club dei braccialetti è a quota 3 milioni. Ma sarebbe rimasto uno fanciullesco delle celeb contemporanee non li avessero fatti uscire dal territorio adolescenziale popolato di adorabili cianfrusaglie per farli entrare dalla porta principale nel mondo delle tendenze kidult. Vittime illustri: Shakira, Mary-Kate Olsen, Katy Perry, Zac Efron. In America, a scuola, i braccialetti non hanno vita facile. Li hanno vietati. Distraggono i ragazzini che non si concentrano abbastanza sulle lezioni e passano il tempo a scambiarseli. Chi porta i dinosauri vuol dire sono a caccia. Chi i fiori sono romantica. Chi i rinoceronti e coccodrilli oggi mordo. E chi li ha scelti fosforescenti, glow in the dark, suggerisce cerco compagnia. Milioni di metri di silicone per appartenere a un gruppo, per essere uguali e diversi, per socializzare. Oggi o hai la serie di Topolino al polso o non sei nessuno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roselina Salemi «Dove vai se il braccialetto al silicone non ce l'hai?» dalla Stampa del 12 ottobre.